Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, in questo mercoledì 7 settembre. Anche oggi, come saprete se avete ascoltato Giulia Crivelli stamattina e poi con la rassegna stampa prima fino al giornale radio, anche Attenti a noi due con Oscar Giannino, solo perché Alessandro Milan per il lutto che l'ha colpito non è con noi. E come Giulia anch'io dico, tutti gli abbracci che gli avete mandato, migliaia di voi, io vi sono grato, la gratitudine la esprimerà poi Alessandro quando torna, ma intanto tutti quelli che avete mandato con i vostri sms, le vostre lettere alle nostre trasmissioni eccetera, noi glieli giriamo e siamo con voi e vi ringraziamo, cari ascoltatori, perché ancora una volta ci avete dimostrato che al di là dell'ascoltarci criticando come è giusto, perché il nostro mestiere esiste grazie a voi, però c'è una comunità anche umana, quindi ancora un abbraccio ad Alessandro. Allora, in questa puntata, cari ascoltatori, di che cosa parliamo? Questo per chiedere a voi di telefonare all'800240024, lo sapete invece per gli sms 349-238-6666. Noi abbiamo tre blocchi di questioni, però le telefonate le chiedo sulle prime due, per così dire. La prima è obbligata ancora, vedremo i vostri diversi punti di vista, perché i giornali continuano a picchiare tantissimo sulla vicenda di Roma, che domina incontrastata, e ieri vi ho chiesto, non è che i media esagerano un po'? Secondo me i media, per una ragione o per l'altra, esagerano un po', perché questo è il banco di prova dei 5 Stelle, ma la domanda di oggi è: ce la fa secondo voi la sindaca Raggi a restare in piedi? Oppure quello che si legge sui giornali di oggi, lo vedremo, sugli scontri durissimi anche all'interno del movimento, la portano a casa? Che cosa è meglio per voi? Siete romani o non romani? Ce la fa? Quanto è contenuto e quanto invece gravissimo, a seconda di come la pensate, il danno attuale e in futuro per i 5 Stelle? Quindi intanto, se volete, chiamateci su questo, ma noi ci occuperemo anche di una questione di fondo, anzi di altre due. La prima è che ieri l'Istat ha detto qui si è interrotta la ripresa italiana, si è fermato tutto, crescita zero, e la nota dell'Istat ci è tornato sopra per farlo capire alla politica, che invece si comporta come se questa stop non ci fosse. Le premesse per la legge di stabilità erano note da mesi, perché il governo le faceva ripetere in media tutti i giorni. Ieri sera il Presidente del Consiglio le ha ribadite, i punti forti della legge di stabilità in arrivo, e sono tali e quali a quelle prima dello stop della crescita certificata dall'Istat. Allora noi vi chiediamo, e di questo parleremo, se vi trovate in questa, nei dati dell'Istat che fanno tornare a zero la crescita italiana, e in particolare quindi se in questo ritorno dopo l'estate voi vi accingete a spendere di più, a spendere di meno, siete più preoccupati, perché in realtà la fiducia è scesa di nuovo molto, e la domanda interna non funziona, i consumi non riprendono. Ecco, avremo degli ospiti su questo, però telefonateci per dire: ma forse l'Istat esagera con il pessimismo, io sono più ottimista. Oppure invece per dirci: no, effettivamente qua gli ordini delle imprese, se siete piccoli imprenditori, sono tornati un po' a essere pessimisti, non ne abbiamo molti, no, non posso spendere molto se sono reddito dipendente o pensionato. Diteci un po' come la vedete questa cosa. Poi dopo le 9 ci occuperemo anche un po' del spaccatura sempre più verticale dopo l'iniziativa di D'Alema che c'è stato ieri all'interno del PD per il referendum costituzionale in arrivo. Ecco, parliamo di questo oggi, e cominciamo naturalmente da Roma con l'ospite che vi presento subito. Naturalmente, quanto ai santi, ne dico solo un paio. Oggi ci sono tantissimi giornali santi questo 7 settembre: Sant'Albino, San Calcedonio, San Grato, San Paragorio, Santa Carissima, pochissima, e quanto alle cose avvenute nella storia oggi importanti, mi limito a dire: nel 1860 Garibaldi entrava trionfalmente a Napoli. Per me, che sono torinese, però è importante almeno anche un'altra data. Nel 1706 oggi finiva l'assedio di Torino dai francesi, e noi piemontesi davamo le pive nel sacco alla grande armata di re Luigi XIV, che doveva tornare sconfitta in Francia. Quindi l'assedio di Torino, Pietro Micca, tutto quello che poi ci fiorisce intorno come mitologia, però insomma una pagina di quelle da ricordare, secondo me un po' dimenticata nella storia italiana. Ma cominciamo, ripeto, subito dalla vicenda di Roma. Io mi limito a dire, nella stampa quotidiana avete sentito la bravissima Giulia Crivelli prima, che vi ha abbondantemente riferito di come i giornali si occupano con quanta estensione, quanta severità della vicenda del sindaco Raggi, della sua giunta che perde pezzi e della resa dei conti, su cui titolano molti oggi all'interno del Movimento. Per esempio la Stampa: resa dei conti fra il direttorio e la Raggi, Grillo attacca, ci ascolti o le toglieremo il simbolo. Oggi dovrebbe essere il giorno di Grillo. La replica della Raggi: viene prima Roma, Repubblica, Murano indagata, Di Maio sapeva, Grillo a Raggio, adesso via tutti, perché il vertice 5 Stelle avrebbe chiesto a questo punto al sindaco Raggi di mandare via Romeo e Marra, cioè coloro nei quali si identifica l'orma del peso della destra nella sindacatura Raggi, e in più De Dominicis, nuovo assessore al bilancio appena arrivato, un po' colorito, e naturalmente l'assessora Paola Muraro, sulla cui consapevolezza dell'avviso di garanzia smentito la polemica a Roma si è ulteriormente allargata. Repubblica, pagina 3, urla nel processo a Luigi Di Maio: basta ragazzini montati, e lui fugge dall'intervista in TV. Sono gli altri membri del direttorio contro Di Maio, che viene considerato l'espressione della parte del direttorio più governativa e quindi più esposta, che è più entrata in crisi, nella crisi dei 5 Stelle a Roma. Repubblica anche riporta la disfatta del cosiddetto raggio magico, cioè l'ex di Alemanno: se parlo io se ne scende giù il teatro, dice Repubblica. Ma io vi richiamo, mi ritrovo, devo dire la verità, parecchio nella linea del Fatto Quotidiano, che richiama tutti a un po' di equilibrio. È vero, i 5 Stelle a Roma stanno perdendo pezzi, credibilità verticale, è vero, dal 94 oggi il centrodestra e il centrosinistra, il governo alternatisi, sono riusciti ogni volta a commettere gravissimi errori, a fare autogol, e di volta in volta regalavano il governo all'opposizione. I 5 Stelle pare che ci stiano riuscendo anche senza aver governato. Tutto questo è vero, e per me solidarietà ai romani, perché vedono anche riapparire il sorriso sulla faccia di chi ha la responsabilità di decenni di rapine a Roma capitale per via del caos dei 5 Stelle. Però il Fatto Quotidiano ricorda un punto che un po' tutti stanno dimenticando, dicendo: certo, la Muraro è indagata, bugiarda, ed è uno scandalo per i 5 Stelle, che hanno sempre invocato l'onestà come criterio identificativo del proprio movimento politico. Però il sindaco di Milano Sala, idem, indagato e bugiardo, resta pure lui, e questo però non scandalizza nessuno. Si potrebbe dire sì, però il centro-sinistra, il PD e Sala non hanno fatto appunto di questo criterio il proprio punto identificativo. Però ecco, insomma, un po' di equilibrio nell'analisi a me pare che manchi. Allora, iniziamo subito con un ospite sulla vicenda romana, e un ospite che oggi sulla Stampa rilascia un'intervista, c'è un colloquio a pagina 2 della Stampa. Stiamo parlando dell'urbanista, assessore all'urbanistica della Giunta Raggi, Paolo Berdini, che io ringrazio di essere qui ai nostri microfoni. Buongiorno assessore. Grazie a voi, buongiorno. Allora, io le chiedo immediatamente, per far capire ai nostri ascoltatori, se si riconosce nel titolo che la Stampa oggi ha dato a questo colloquio. Il titolo è questo: Berdini, fili oscuri imprigionano Virginia, grumi di potere fanno capo a Marra e Muraro. È una sintesi corretta di quello che pensa? No, è una delle tante vergogne che ho subito da venerdì. Ecco. Io non ho rilasciato alcuna intervista alla Stampa. Sento da lei che addirittura sarebbe sparata in seconda pagina come intervista. In realtà è una, veramente, io non credo, no, ai complotti della Stampa, per carità, lasciamo perdere questi fantasmi che servono solo vengono riportate dei suoi virgolettati ai suoi collaboratori, però tutto virgolettato, perché siccome la cosa mi colpiva, la prima cosa che ho fatto è stato chiederglielo. Comunque, allora, ringrazio. No, è almeno completamente priva di... Ma devo dire che da venerdì che io vedo virgolettati che non ho mai rilasciato. E allora, a maggior ragione, grazie di essere qui. Allora ci dice direttamente come davvero la pensa. Secondo lei, come dovrebbe uscirne fuori il sindaco? Secondo me dovrebbe uscirne fuori in maniera straordinariamente nuova, cioè fino ad oggi, un po' quello che accennava lei, cioè la politica ci ha abituato a tutto, appunto il sindaco di Milano che non va su tutti i giornali, eppure qualche cosa è successa, e invece chi incarna una nuova politica dovrebbe assumere fino in fondo l'aver preso qualche piccolo errore, qualche piccola sottovalutazione, magari togliamo anche l'aggettivo, non è piccola, no? Dipende poi dalla misura che ciascuno di noi lo dà. Però appunto uno assume la responsabilità di dire c'è stato uno sbaglio di percorso, uno sbaglio che è addirittura comprensibile, insomma il governo di Roma è un governo molto complicato per lo stato in cui è stata lasciata questa città, quindi sarebbe comprensibile dalla stragrande maggioranza della popolazione, meno ovviamente i fedelissimi di questa o quella visione, e quindi si ricomincia. Ecco, secondo me questo passaggio sarebbe straordinariamente bello, perché ridonerebbe alla politica quella veste che è stata abbandonata in troppi anni di bipolarismo perfetto. Cioè il fatto che oggi ci sia questo polo del 5 Stelle è secondo me un buon viatico per la democrazia, cioè finalmente possiamo rompere questa gabbia che si era creata e che a Roma in particolare ha portato a tutto quello che sappiamo negli anni scorsi. E allora avere l'intelligenza di incarnare il nuovo dicendo pure ho fatto un errore, secondo me sarebbe un messaggio straordinario. Posso chiederle una cosa? Ma questa cosa che le viene attribuita oggi, cioè, e che è uno dei finali attraverso cui la stampa sta tentando di ricostruire lo scontro interno intorno al sindaco nel direttorio romano, tra il direttore nazionale e il sindaco stesso, cioè questa orma della destra che ci sarebbe nell'asse di Marra e Romeo, a cui il sindaco si è appoggiato, ha dei fondamenti secondo lei da quello che ha visto, da che ha accettato di fare l'assessore? Sono i giornali che vedono le impronte della vecchia politica anche all'interno dei 5 Stelle per comprometterli ulteriormente? Come stanno le cose da quello che ha capito? Secondo me è la seconda ipotesi che lei faceva. C'è un atteggiamento mentale nostro, parlo anche di me, insomma, non più giovanissimo, che riguarda sempre destra, sinistra. Credo che questa chiave di lettura non ci serva più molto, se vedo quello che succede anche all'estero con Podemos, cioè, lì è difficile incardinare un movimento destra-sinistra, loro parlano di alto-basso che è tutt'altra categoria. E allora anche in questo caso dire che Marra, che peraltro conosco veramente non poco, pochissimo, è questione fuorviante. Cioè, il problema è come si affrontano i problemi di una città grande e come si riesce ad aprire la macchina operativa del comune, perché poi la struttura apicale che sta intorno al sindaco è il motore su cui credo che quel motore vada reso esplicito a tutti, e questo, anche questo sarebbe il grande compito della politica, cioè quello di rendere evidenti quali sono i passaggi, quali sono i progetti che si hanno per la propria città. Senta, il governo e anche Malagoccio e il presidente del CONI stanno, secondo me, l'impressione che ho da 48 ore, tentando di forzare per il dossier che a loro interessa molto, cioè il sì di questa giunta alle candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024, e come dire, stanno tentando di volgere la mala parata dalla difficoltà estrema del sindaco di fronte al suo elettorato e a Roma e al Movimento 5 Stelle per dire dovete dire di sì a questo punto. Per una persona che ha messo la sua credibilità personale e per tutto quello che in questi anni lei ha detto e scritto per la tutela urbanistica, piani di sviluppo con un impatto fatto che sia innanzitutto sociale, ambientale, gli interventi nelle grandi città, eccetera. Per lei è una priorità davvero, oppure no, questa storia delle Olimpiadi? No, rispondendo in maniera secca alla sua domanda, direi che non è la priorità. Ma c'è una chiave di lettura che però interessa a me e credo che sia invece l'architrave su cui poggiare, no, il futuro di questo paese. Faccio un esempio banalissimo, ma guardate che è così evidente che secondo me dovrebbe essere ancora più pubblicizzato. Perché mai non si fanno le gare di canottaggio nel meraviglioso lago di Castel Gandolfo, sotto la residenza estiva del Papa? Insomma, è stata una delle immagini molto belle, no, del 1960. Perché il lago è sprofondato della bellezza di 6 metri. Ci sono i pilastri del vecchio impalcato, no? dove appunto gli atleti entravano nelle loro barche, che stanno 6 metri fuori, tant'è che sul lago per la prima volta nella storia c'è una spiaggia di sassi ovviamente vulcanici. Allora credo che è quella la chiave di lettura, cioè noi stiamo distruggendo l'ecosistema. E vogliamo continuare con questa retorica dell'Olimpiadi con la O maiuscola? Noi dobbiamo proprio cambiare ottica e dire che dobbiamo fare tutte quelle opere che servono alla salvaguardia ambientale delle città, a diminuire le emissioni di gas. Insomma, anche qua, così torno alle Olimpiadi, se nel futuro di Roma ci sarà posto, perché ci saranno le risorse che oggi io non ho, per realizzare 5-6 linee di tram, ma questo significherebbe decine di migliaia di veicoli che camminano in meno in città e dunque i nostri bambini respireranno un po' meno gas. Allora, se questo progetto è compatibile con una visione delle Olimpiadi, allora vanno bene pure le Olimpiadi con la O minuscola. No, certo. Si tratta di capire qual è la logica e la filosofia e l'impatto. Esattamente. Ecco, che però mi pare che non sia esattamente una delle grandi punti forti del dossier di candidatura. Però questa è la mia opinione, io non ho mai nascosto di considerare rispetto ai disastri ereditati a Roma capitale, incrostati in decenni, il dossier delle Olimpiadi come una cosa che non dà risposte rispetto a quella che è la vera priorità della finanza pubblica, delle municipalizzate, dei cittadini di Roma, dell'offerta dei servizi. Ma questa è la mia opinione come osservatore. Intanto io ringrazio Paolo Bardini, che intanto si è reso disponibile, ha parlato, ha chiarito anche come la stampa di Torino oggi, i colleghi Jacoboni e Giuseppe Salvaggiulo, che a pagina 2 gli attribuiscono delle opinioni, lui ci ha dato le sue opinioni dirette e da questo punto di vista sono le opinioni di chi dice bisognerebbe assumere una responsabilità di fronte agli elettori di Roma e a quel punto si può andare avanti. Grazie Bardini e buon lavoro, noi torniamo tra un minuto. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, tornati con Oscar Giannino, aspettando che torni con noi, speriamo presto, Alessandro Mila. Intanto, ascoltatori, su Roma 5 Stelle, brevissime risposte ai tanti che mandano sms. No, non mi sono iscritto, non sono un votante, non sono un simpatizzante dei 5 Stelle. Però, ragazzi, è inutile far finta di non vedere, ed è fisiologico che avvenga, visto che i 5 Stelle possono essere l'alternativa al sistema dei partiti attuale, e quindi se cadono a Roma, che è la capitale, tutti si fregano le mani, gli altri partiti, e chi preferisce gli altri partiti anche nell'informazione. Però non facciamo finta di non vedere che il sindaco di Milano Sala, a molti è spiaciuto questo paragone, era indagato pure lui prima di candidarsi e noi non l'abbiamo saputo. Si è dimenticato di essere proprietario di una casa in Svizzera, non l'aveva detto in campagna elettorale, eppure questo non ha leso la sua credibilità. Si è dimenticato delle società che partecipava, perché non erano nella dichiarazione che era obbligato a rendere come capo dell'Expo, eppure questo non ha leso la sua credibilità. Ha dovuto cambiare quello che aveva nominato capo di gabinetto perché non aveva i titoli aveva nominato, eppure questo non ha leso la sua credibilità. Sono fatti oggettivi, non è che me li invento. Io ho anche un buon giudizio di Sala, però come vedete il doppio criterio esiste nel creare le notizie e nel creare i casi. E da Qua, e se a quel punto io dico evidentemente l'onestà per alcuni candidati non è un criterio che pesa di più e lede di più la sua credibilità piuttosto che altro, è un fatto oggettivo, non è che io sto dicendo che Sala è un disonesto, ci mancherebbe altro, però sto dicendo semplicemente che i due pesi e due misure esistono nell'informazione e nel giudizio politico. Dopodiché i tanti romani che dicono ma non è vero che si sono alternati alle legislature destra e sinistra facendo autogol e regali perché ci sono sindaci che sono stati confermati, io stavo parlando della legislatura a livello nazionale, dicevo i 5 Stelle rischiano di uccidere la propria credibilità invece senza aver vinto neanche un'elezione nazionale, ecco. Ma a livello nazionale dal 94 a oggi destra e sinistra sono alternati al governo nazionale ogni volta facendo autogol e lavorando per l'opposizione. Sentiamo rapidamente alcuni di voi su cosa pensano della domanda lanciata all'inizio della trasmissione, ma ce la fa il sindaco a Roma oppure crolla, e con lui crolla un pezzo importante della credibilità dei 5 Stelle. Sentiamo Fabio da Roma, prego Fabio. Salve dottor Giannino, buongiorno. Sì, già, dottore premessa... no, se no ricominciamo. Oscar e basta, prego Fabio. Ok, salve Oscar. Allora, una premessa e una considerazione. Trovo anch'io che effettivamente certa parte della penso, Repubblica sulla questione delle Olimpiadi stia sparando ad alzo zero sulla sindaca, più o meno legittimamente ci può stare. Così come anch'io sto ravvisando un certo doppio pesismo, io ho interessi anche a Milano, lavoro a Milano ed effettivamente la questione Sala sta passando beatamente. Non esiste proprio, non esiste proprio. Esatto. Dopodiché forse anche bene, non dico di no, però intanto non facciamo finta di non vederlo. Detto questo, come la pensi? Allora, oggettivamente io trovo che la sindaca Raggi debba avere un pochino di indulgenza, bisogna essere compassionevoli e comprensivi, però francamente penso all'ultima vicenda, la nomina di De Dominici, che è confermato che è stato sotto, diciamo, candidatura sottoposta dallo studio San Marco vicino a Previti, e allora vuol dire che è recidiva la sindaca Raggi, sì. È recidiva e forse, diciamo, rispetta un pochino in carisma e può dare. Ci si deve interrogare sull'adeguatezza di una persona del genere e con questo carisma guidare Roma. Condivido questo... anche questo, perché insomma, troppi errori stanno iniziando a delineare un profilo. Certo, non è l'Appendino a Torino, questo ormai è evidente a tutti, però insomma, il troppo è troppo. Antonio da Roma, come la pensa? Buongiorno Oscar. La doppia misura con la quale praticamente lei sottolinea il fatto che non si parli di Sala o di della Raggi a Roma, a me sembra che lei la metta tutta quanta a favore della Raggi, perché di fatto se lei sente come parla con enfasi di quello che dice delle situazioni che sono successe a Milano, non la mette minimamente nel sottolineare come la Raggi sia completamente etero diretta e che quello che è successo a Roma, ma al di là della casa di vetro che volevano costruire i 5 Stelle, a me sembra una di cemento armato quella dei 5 Stelle che stanno facendo. Mi scusi, ma la sua obiettività in merito a queste due misure è tutta spostata a favore della Raggi. Almeno questo è quello che a me sembra di sentire quando la sento parlare. Ma io, scusi, aspetti un secondo, più che dire che stanno rischiando in toto la credibilità anche per le prossime elezioni politiche, sì, ma che hanno fatto un mucchio di errori. Quello che a me però tocca, secondo me, magari sbaglio, lei dice no, questo significa essere fuori dalla Raggi, sottolineare è che la giusta enfasi, perché ripeto, sono errori che stanno minando la credibilità non solo a Roma ma a livello nazionale dei 5 Stelle, e questo chi lo nega è uno scemo, no? Questo è il grande fatto oltre al fatto romano, ma chi nega che in questo ci sono le attese, le aspettative e anche l'enfasi di tutto il resto della politica italiana che non spera altro che in questo, tant'è vero che c'è una questione di doppio pesismo, questo secondo me è fare un pochino anche il mio mestiere. Non c'entra niente essere a favore con la Raggi, perché la Raggi e 5 Stelle, secondo me, è giusto che paghino per tutti questi errori. L'informazione dovrebbe però essere un pochino più terza e fredda, tutto qui. No, non la voglio convincere del contrario di quello che ha detto, ci tengo semplicemente però a precisare anche per Radio 24, Radio 24 non deve prendere parte, tifare. Certo, se uno legge e vede i giornali, il tifo c'è, invece, ecco, tutto qui, niente di nuovo, perché l'informazione non esiste come terza o autonoma e distaccata dalle passioni e dagli interessi, però, e dagli interessi, perché dietro cose come le Olimpiadi ci sono interessi, dietro il sacco di Roma di decenni ci sono fior di interessi, non facciamo finta di credere che siano solo le competenze in gioco oggi. Il sacco di Roma è il sacco di interessi contro gli interessi generali. Antonino da Milano, che dice? Oscar, dunque, ascoltavo i suoi commenti e ha citato spesso la parola errori dalla città parte della città di Roma e della città Caracci, naturalmente. E sbaglia chi o è incapace oppure ha preso sotto gamba l'impegno e l'incarico che ha. E purtroppo l'incapacità fa più danni della disonestà. È il punto di ieri, questo sì. Ecco, allora, io sono del parere che quello che possa fare Sala con la sua casa in Svizzera, mi può fregare di meno. A me interessa che Sala governi Milano e lo sta governando. E lo sta anche governando. Perché, sì, la sta governando. No, no, no, ma su questo, il problema di ieri. Certo, il problema è un altro, che la città Caracci ha dimenticato di governare Roma e si è semplicemente impastata in quei meandri del direttorio, ma insomma Roma chi la governa? Grillo o la Raggi? Adesso oggi arriva Grillo e sembra di capire che come sempre siamo al limite di fondo dell'esperienza del Movimento 5 Stelle, cioè l'eterodirezione, il fatto che poi se i cittadini eleggono un sindaco vogliono il sindaco ed è lui che deve risponderne. Ecco, questi sono tutti i punti che vengono al pettine nel disastro che è in atto a Roma per i 5 Stelle. Io credo che avrà conseguenze, anche se dicono i sondaggi, per il momento il danno nei sondaggi è contenuto. Vedremo, grazie anche ad Antonio da Milano, anche secondo me è meglio essere competenti che fanatici di valori che poi nel come funziona la foresta giuridichese italiana ti condannano fin dal primo giorno, cioè voglio dire, un conto è l'onestà, altro conto è il legalismo. Il legalismo italiano è una trappola che affonda tutti. La verità è avere le competenze e la capacità, e a Roma sa Dio quante ne servono. Allora, chiuso questo capitolo, andiamo a una delle note invece di fondo italiane che è trascurata secondo me proprio per l'impatto della vicenda romana, ed è quella della crescita italiana tornata a zero. Al governo non è piaciuto il fatto che a metà agosto l'Istat abbia stimato il secondo trimestre 2016 con crescita tornata a zero congiunturalmente. Ha fatto scrivere a tutti i giornali che l'Istat avrebbe corretto questa sua stima. Ha fatto scrivere a tutti i giornali che i metodi dell'Istat sono sbagliati perché pesano troppo la manifattura, poco i servizi, che l'Italia non era affatto a crescita zero. Doppio schiaffo, perché l'Istat ha dato la stima definitiva di crescita zero, e a quel punto il governo ha fatto una figura un po' barbina, se posso dirlo. Ieri Renzi ha confermato che le priorità per la legge di stabilità sono quelle prima del ritorno alla crescita zero, come se niente fosse avvenuto, quindi prepensionamenti, per carità, interventi sulle pensioni basse, però insomma non è un cambio di marcia che prenda atto del fatto che questa grande ripresa, quella delle 30 slide del governo, non c'è. E lì è stato dovuto emettere una nuova nota, che era sui giornali di ieri ma è finita un po' trascurata, nella quale si dice appunto e si ribadisce che la ripresa della crescita italiana si è interrotta perché la domanda interna, i consumi vanno male, perché la fiducia è scesa, non è tanto per Brexit, è l'Italia che si è incartata, perché gli altri paesi infatti, per quanto in frenata, continuano a crescere di più. Tra l'altro ieri, ridicolo nel ridicolo, dopo Goldman Sachs anche Morgan Stanley e Credit Suisse invece hanno ricorretto verso l'alto le attese di crescita 2017 del Regno Unito dopo Brexit. Allora, la questione che noi vogliamo sapere è: ma questa che sembra una questione politica per riconoscere o meno i meriti del governo, ed è invece una questione che ha a che fare col portafoglio di tutti voi, milioni di italiani, con la crescita interrotta, i consumi che non sono ripresi, è veramente così? E allora abbiamo due ospiti a cui rivolgiamo questa domanda. Il primo è il Mariano Bella, che avendo da anni come osservatorio quello del centro studi di Confcommercio ci dice se le cose stanno così oppure se c'è un po' di caligine politica in questo scontro. Mariano, tu che dici? Buongiorno a tutti intanto. Dunque, la vicenda della mancata revisione, a un certo punto l'Istat tira fuori dei dati secondo dei metodi che non sono solo dell'Istat ma sono condivisi a livello planetario dall'ONU all'Eurostat. Qualche tempo dopo ha degli altri dati che si riferiscono ai servizi. Questo fatturato dei servizi nominale, quindi non si sa in termini reali quanto era il tasso di crescita, era molto buono, e anche noi come ufficio studi, abbastanza indipendente credo, ci aspettavamo legittimamente una revisione al rialzo del dato precedente dell'Istat sul complesso dell'economia, che l'Istat stesso non aveva e quindi non poteva avere preso completamente in considerazione. Dopodiché la revisione non c'è stata, ma l'Istat ha semplicemente detto e ha spiegato con grande chiarezza che aveva fatto una previsione risultata centrata su quella crescita dei servizi. Fine. Io non so, ho letto pure io il virgolettato del governo, ma non attribuito a qualcuno, quindi non so chi l'ha detta queste cose, che si è lamentato dell'Istat, però mi sembra onestamente una sciocchezza. Ma insomma, a voi dal vostro osservatorio vicino a imprese di commercio, per domanda e consumi, è vero che gli italiani sono tornati un po' indietro rispetto all'idea di poter consumare di più? Purtroppo sì. Nel secondo trimestre sicuramente, ecco. Cioè c'è stata una forte frenata dovuta a una crisi di fiducia che ormai conclamata, forse anche Confindustria come Uffici Studi non l'abbiamo sottolineata abbastanza, ma se guardiamo oggi i dati, negli ultimi 8 mesi sia la fiducia delle famiglie che delle imprese è scesa. E il problema sai qual è, Mariano? Che c'è il timore di dirlo perché sennò il governo si incazza. Io lo dico esplicitamente che è così, lo dico perché questo è un condizionamento forte dell'informazione italiana in atto, perché il governo che fa il suo mestiere è molto energico nel premere su questa faccenda qua, cioè le 30 slide del governo che a volte raccontano una realtà molto forzata rispetto ai dati, emesse non a caso prima dei dati Istat, erano tutte per dire ma no, stiamo crescendo, la grande ripresa. E il dato è che se uno va a vedere i trimestri 2015-2016, il primo 2015 era più 0,4, poi i successivi 3, 2015 sono stati più 0,3, più 0,2, più 0,1 e poi adesso siamo a 0 di crescita congiunturale. Allora, io ringrazio Mariano Bella per aver detto quello che secondo me è un po' il fatto che l'informazione vi deve consegnare, cari ascoltatori, cioè è vero che la ripresa italiana torna a manifestarsi una pesante mancanza di fiducia, c'è una crisi del manifatturiero e dell'industria fortissima nei dati di giugno, c'è un PMI, cioè l'indice che mette insieme ordinativi e attese di fatturato, che è più basso ad agosto da 20 mesi, sotto la soglia della contrazione. Questo è il fatto rispetto al quale la politica economica del governo dovrebbe fare un cambio di marcia. Ma al di là delle cose tecniche, con noi Lia Celi, giornalista, scrittrice, osservatrice di costume, e se posso dire anche, questa è la mia opinione personale, con humor e intelligenza anche femminile, concreta, pratica, al di là dei numeri tecnici. E Lia Celi, grazie di essere con noi. Io faccio a te la domanda, questa volta non solo come giornalista, osservatrice di costume. Ma tu, a casa tua, in questo ritorno dopo l'estate, con le tue amiche, i tuoi amici, insomma le famiglie del tuo circolo, questa crisi di fiducia, A, la vivono, B, spendete di più, di meno, insomma, cosa c'è di vero in tutto quello che hai ascoltato fino a questo momento secondo te? Intanto grazie Oscar, troppo buono, grazie per i complimenti, ma guarda, se c'è qualcosa che cresce a casa mia sono i figli, e quando tu hai una famiglia con 4 figli che vanno a scuola a settembre, guarda, io credo che il prossimo rapporto Istat lo alzo io da sola, visto che mi aspetta l'acquisto dei libri, zainetti, corredi scolastici, quindi al di là di quello che dice l'Istat o della crisi fiducia non fiducia, io voglio anche trasmettere fiducia a questi ragazzi, quindi insomma provvedere di tutto quel che serve per affrontare la scuola, come sai in Italia soprattutto. Quindi una bella spesa comunque, obbligata. Infatti, poi fra l'altro per rilassarmi, diciamo così, per sfuggire alla crisi di fiducia ho anche adottato un gatto, anche perché permette di risparmiare sugli antidepressivi, tu accarezzi il gatto, fa le fusa, tipo Blofeld in 007, probabilmente lo accarezzava per lo stesso motivo, la Spectre costava parecchio e per rilassarsi accarezzava il famoso gatto bianco, ecco. Quindi, e anche lì insomma il minimo di credo come sui tuoi consumi voluttuari invece, cioè trucco e abiti, risparmierai o no? Io ho l'impressione che gli italiani che amano comunque vivere bene e per esempio in questi ultimi anni hanno anche acquisito nuove competenze per quanto riguarda la salute e l'alimentazione, non tornano indietro, semmai riducono le quantità. Io non sono una frequentatrice di concessionario, ma infatti stai dicendo una cosa che è confermata dai dati, cioè nel senso che su bellezza e benessere effettivamente anche quando i consumi scendevano era un punto forte. E Lia, continueremo a romperti le scatole però queste osservazioni concrete, però se hai ancora un po' di tempo nelle prossime mattine, intanto grazie, noi ci stiamo dopo Giornale Radio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. L'Unione Europea è impegnata in una difficile operazione di contrasto all'elusione fiscale, in particolare verso le grandi multinazionali che non pagano tasse sui profitti laddove i profitti vengono prodotti grazie alla loro capacità di sfruttare al meglio i buchi, le debolezze delle normative fiscali nazionali. Il caso Apple è l'esempio più recente, con l'Europa che ha messo nel mirino l'Irlanda per il trattamento di favore concesso all'azienda americana, grazie al quale l'azienda americana stessa ha potuto risparmiare circa 13 miliardi di tasse in poco più di un decennio. Sempre parlando di tasse, c'è un altro fronte che vede l'Unione Europea ancora in difficoltà. Uno studio della Commissione Europea ha stimato in 160 miliardi di euro il totale dell'IVA che ogni anno viene evasa all'interno dell'Unione, il che conferma che ancora poco si è fatto per sconfiggere frodi e truffe sull'imposta sul valore aggiunto, che, ricordiamolo, è un'imposta comunitaria che funziona con regole identiche in tutta l'Unione. Le regole sono identiche, ma l'evasione non è identica. Neanche a dirlo, l'Italia è il paese con la più elevata evasione dell'IVA, con un tax gap, cioè la differenza tra l'IVA attesa e quella effettivamente pagata, di quasi 37 miliardi di euro. Un dato in miglioramento che si riduce un po', visto che nel 2013 sfiorava il totale di 40 miliardi, ma che conferma una cosa: quando si tratta di competere sul terreno dell'evasione fiscale non siamo davvero secondi a nessuno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 24 mattino, attenti a noi due. Ed eccoci qui alle 9.04 con Oscar Genero. Riprendiamo e salutiamo ovviamente Alessandro Milan, mandandogli un abbraccio, aspettandolo. Allora, abbiamo visto quello che pensate molti di voi nelle telefonate, ne prenderò ancora qualcuna su Roma. Siamo partiti da Roma, ci siamo allargati poi su il ritorno a zero della crescita nel nostro paese, che è lo scenario sul quale adesso arrivano poi i provvedimenti, le misure della legge di stabilità. Uno scenario che non piace al governo, ma è fattuale, sta nei numeri, e l'Italia continua da 20 anni ad andare peggio degli altri, sia quando le cose vanno bene nell'economia, sia quando le cose vanno male. Perdiamo di più degli altri quando vanno male e riprendiamo a crescere più tardi e meno degli altri quando le cose vanno meglio. Vorrà dire che ci sono dei problemi strutturali, no? Vorrà dire questo, anche se alcuni pensano che sia per l'euro. No, questa tendenza nasce 10 anni prima dell'euro. Comunque, sentiamo ancora come la pensa Stefano sulla faccenda di Roma invece. Prego Stefano. Sì, buongiorno Oscar. Sì. Tutto ciò che è grande nella tempesta, in particolare la politica, quindi i 5 Stelle non devono sentirsi perseguitati. In particolare, secondo me, va paragonata Roma su Roma. A Marino non sono stati dati 2 mesi, ma 10 secondi dopo che era eletto per entrare in polemica. Quindi diciamo che paragonare Roma e Milano non sono le stesse piazze. Roma è caratterizzata da una polemica totalmente diversa con qualunque sindaco. Un'altra cosa sull'economia: finché non funzionerà la giustizia amministrativa, l'Italia non si riprenderà mai. Questo è sul legalismo, vedo che sei d'accordo con me. Questo sono completamente d'accordo. Cioè, ormai si rischia mettendo una firma su qualunque cosa, anche se si ha competenza. Non è che i competenti non rischino gli avvisi di garanzia nel nostro paese, e non per questo sono automaticamente delinquenti o disonesti. È un problema serissimo quello della foresta delle norme, che porta all'asfissia del coraggio delle scelte. Pasquale da Firenze, come la pensa Pasquale? La penso così, che io mi trovo d'accordo sui contenuti dei 5 Stelle, ma proprio poco sui metodi. Nel senso che questa ricerca esasperata di uno Stato etico alla fine ci allontana anche dalla democrazia. Cioè, è evidente che mettere alla gogna una persona che ha avuto un avviso di garanzia alla fine, oppure che ha avuto un reato, che è stato accusato o comunque condannato anche per un reato colposo, va bene, significa spesso mettere alla gogna le persone oneste. Cioè, il concetto di onestà è un altro, secondo me, non ha nulla a che vedere con quello dell'aver avuto un avviso di garanzia. E se continua a ostinarsi in questo tipo di ricerca dello stato etico, alla fine le persone si allontanano dalla dei 5 Stelle. Ed un conto è l'onestà vera dei soldi pubblici a cui rispondono al contribuente, da non mettersi nelle tasche. Altro conto è il giustizialismo che uccide se stesso, che mangia se stesso, ci dice Pasquale. Sono molto d'accordo anche su questo, a dire la verità. Un altro flash, sentiamo un secondo che cosa ha detto su un altro dei temi che pesa sulla prossima legge di stabilità. Non è solo il ritorno a zero della crescita italiana, c'è un grande problema irrisolto che riguarda le banche italiane, l'aumento del capitale di MPS, il nuovo buco di 800 milioni che è emerso ieri alla Popolare di Vicenza, l'asta per aggiudicare le 4 good banks di novembre scorso che continua a non poter essere chiusa perché quelle banche erano valutate 1.8 miliardi, ma non esiste, non è una valutazione di mercato e quindi significa per il resto delle banche italiane che ci hanno messo i soldi perdere 1 miliardo e rotti. Ecco, questi problemi del sistema bancario italiano sono un altro dei punti di fondo di debolezza. Sentite cosa ha detto ieri Renzi su questo. Sulle banche il mondo della politica ha fatto l'impiccione negli anni che furono. Il mondo del giornalismo, lo dico con rispetto dei tre direttori qui presenti, ha dormito alla grande. No, non è fatto no, scusi, quotidiano. No, Padellaro, guardi, stiamo parlando di 10 anni fa quando lei faceva il direttore di altri giornali. Però lei ha dormito e comunque... Io ho dormito. Posso, sì, sì, fu come tutti i giornalisti che non si sono resi conto di quello che stava accadendo. Perché ma sulle banche la colpa è mia. Padellaro mi fa, abbia la cortesia di far finire una frase. Cioè questo... Non può dire che ho dormito perché sì, non va Padellaro, certo questo. Non, allora, la categoria ha dormito. No, no, fermi un secondo. Allora, questa è una cosa che mi ha lasciato senza parole. Senza parole. In piccolo vuol dire poco, ma io per esempio ho subito un licenziamento disciplinare quando dirigevo un giornale economico finanziario, si chiamava Libero Mercato, perché messomi contro i conti e il capo della Popolare di Vicenza, che sapete com'è finita, il capo della Popolare di Vicenza mi avvisò e poi intervenne sul mio editore. E poi perché facciamo le bucce ai bilanci delle banche, era 2008, 2007-2008, sul patrimonio di vigilanza di Intesa, Intesa fece la stessa cosa all'epoca, era guidata la Passa all'epoca, e licenziamento disciplinare, ho avuto il mio soddisfazione in tribunale, quindi non è affatto vero che i giornalisti abbiano dormito, ma non solo io e tanti altri colleghi in altre testate. È vero che le proprietà editoriali erano molto soggette agli interessi della banca, ma che il segretario del PD con MPS messa in ginocchio dal suo partito, mi dispiace dirlo, la storia è questa, e dall'intreccio tra Siena, la fondazione di Siena, la politica eccetera, dica che il problema sono i giornalisti. Va bene tutto nel nostro paese. Io per primo ho vissuto editori molto corrivi con proprietà e gestioni bancarie. Però un po' di autocritica ogni tanto farebbe bene, no? Ecco, questa è la mia semplice opinione, non di osservatore, in questo caso di attore, come giornalista economico e finanziario. Visto che a MPS siamo con tanti anni commessi dalla politica e dal 2012 che la politica rinvia l'intervento, i Tremonti Bond, i Monte Bond, continua a dire, lui ha detto in persona al Premier che bisogna comprare i titoli MPS perché era risanata. Dove? Quando? Scusate, ma forse sto parlando in questo caso di questo Presidente del Consiglio, non della storia del PD precedente. L'ho detto anche perché in questi altri 20 minuti parliamo invece di un altro aspetto che sta finendo un po' nella disattenzione rispetto al rilievo dato alla vicenda, come è giusto, di Roma, dei 5 Stelle, del sindaco Raggi, e cioè gli sviluppi in corso intanto in vista della consultazione referendaria sul referendum della Costituzione, con il dibattito sì e no, ed è un dibattito che spacca la sinistra, spacca il PD, spacca anche il paese, ma insomma l'altro ieri la novità è stata questa convention al Cinema Farnese di Roma con Massimo D'Alema, non solo Massimo D'Alema, ma insomma raccolta da Massimo D'Alema per motivare con grande durezza il no a questo referendum, non solo nel merito delle scelte fatte con gli articoli rivisti della Costituzione, perché D'Alema l'ha fatto ufficialmente, anche se era già chiaro, ha rilanciato questo no come un no che serve in realtà a mandare a casa il metodo, la persona, le scelte di fondo di questa segreteria del PD. Quindi è una battaglia politica aperta anche nei confronti di una leadership del partito che D'Alema non stima, di cui non ha nessuna stima. Allora, per parlare sia del sì e del no, ma anche di questo nuovo aspetto che è una battaglia politica, ma posso dire in D'Alema c'è anche una chiarezza, ne fa una questione antropologica, cioè lui non sopporta proprio il metodo e le persone che hanno portato il PD con Renzi a fare queste scelte. Allora abbiamo due ospiti per capire come la pensano dai due diversi punti di vista. Un ospite, deputato della sinistra italiana, ex PD, che era alla convention al Farnese a sentire D'Alema, cioè Alfredo La Torre. Buongiorno. Buongiorno, grazie. E Claudio Velardi, spin doctor, imprenditore, editore, ex collaboratore tanti anni fa di D'Alema, e che continua a osservare con grande partecipazione le vicende civili della sinistra e di questo governo. Grazie Claudio di essere con noi. Buongiorno a te, Oscar, a tutti voi. Allora, Alfredo La Torre, lei cosa si aspetta da questa aggiunta molto polemica, molto decisa e che mira al cuore della leadership del PD e della sinistra futura con il no di D'Alema? Sì, innanzitutto mi faccia dire una parola di solidarietà appunto per lei e per la categoria dei giornalisti, perché trovo francamente incredibili le parole del Presidente del Consiglio ieri. Renzi sarebbe anche un intrattenitore divertente se non fosse appunto a capo del governo. Questa spregiudicatezza assume i caratteri anche della pericolosità del paese. Lei ha ricordato, Renzi era quello che qualche mese fa, a gennaio, invitava i cittadini italiani a comprare le azioni di MPS dicendo che era un ottimo affare. Andava in Germania a dire che il sistema bancario italiano era solidissimo e che non avevamo nessun problema. Ci troviamo davvero di fronte a uno stile di governo che è del tutto inadeguato rispetto alle esigenze di un grande paese. Sul referendum io credo che ci sono ragioni fortissime per il no che si stanno consolidando, cioè man mano che il dibattito entra nel merito e si capisce che il Senato non viene abolito, il procedimento legislativo diventa perfino più farraginoso e complicato, il 91% dei costi di funzionamento del Senato rimane in vita, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato, non il Comitato del No. La revisione del titolo quinto è molto pasticciata e rischia di riaprire un enorme contenzioso davanti alla Corte Costituzionale. In più la legge elettorale, che è collegata alla riforma costituzionale, che Renzi dice di voler cambiare, ma solo a parole, con una mossa tattica, è evidente che al netto di ciò che deciderà la Corte Costituzionale, l'unica possibilità politica per cambiare la legge elettorale è legata alla vittoria del no al referendum. Insomma, man mano che emergono le ragioni di merito, secondo me l'area del no è destinata ad allargarsi. E anche questo tentativo di allungare i tempi, il Presidente del Consiglio, credo che gli si ritorcerà contro. Io sono convinto che più si andrà avanti e maggiore sarà la vittoria del no. Sul piano politico è evidente che c'è una parte, secondo me, sempre più significativa della base del PD, di quella parte di sinistra che ancora è nel PD, che non se la sente di appoggiare questa avventura, che individua nel referendum anche l'occasione per chiudere una stagione politica e aprirne un'altra. Ma questo, cioè, parliamoci chiaro, è molto legato anche alla realtà dei fatti. È evidente che se vince il sì si stringe definitivamente l'accordo Renzi-Alfano-Verdini, quella ipotesi di governo resta per l'oggi e per il domani. Chi vuole riaprire una prospettiva, diciamo, progressista, di centrosinistra, è evidente che trova anche nel referendum la chiave per una svolta politica. Da questo punto di vista D'Alema ha colto un obiettivo, punto politico, e secondo me anche il resto della minoranza PD, volente o nolente, sarà costretta ad arrivare su quella posizione. Claudio Velardi, che cosa la convince o meno di quello che ha detto Alfredo La Torre, e soprattutto ricordiamo anche della durezza con cui D'Alema, prima del Farnese e poi al Farnese, ha reimpostato la faccenda del no, aggiungendoci tutto il carico possibile da parte sua su Renzi e il futuro del PD, della sinistra, eccetera, eccetera, ma cioè mandarli a casa, insomma. No, delle cose che dice da Torre una parte non mi convince, quello sul referendum, diciamo, nel senso che io penso che nel merito ci sono delle ottime ragioni per votare sì, e soprattutto, diciamo, per avviare, grazie al sì, un processo di cambiamento che si reclama sul piano istituzionale da 30 anni, che è stato perseguito anche da D'Alema, diciamo, a suo tempo, e che adesso trova uno sbocco. Sarà imperfetto, bisognerà metterlo alla prova, bisognerà verificarlo, benissimo, lo faremo, l'importante è che si metta in moto finalmente un nuovo sistema bicameralismo perfetto, che si riformi il titolo quinto per eliminare la materia concorrente tra Stato e Regioni, che crea una confusione pazzesca, più tante altre cose. Ma questo va bene, insomma, sono opinioni che poi si confronteranno nella campagna referendaria. Sull'altro punto invece io sono d'accordo con D'Attorre. D'Alema persegue un disegno politico che ha una sua lucidità e una sua ragion d'essere. Cioè lui si fa garante di un apparato politico, quello che era presente l'altro ieri al Farnese, di cui D'Attorre è un giovanissimo esponente, diciamo, ma c'erano parecchi ultrasettantenni, diciamo, alla convention di D'Alema, e garante di un... Cioè lei dice sono i Revenants, sono dei nostalgici, vogliono tornare. Insomma direi, insomma, guardarli un po', certi che conosciamo tutti, insomma. E anche di un universo simbolico, quello del popolo della sinistra, così detto, che ha un suo peso e una sua cultura. È minoritario, certo che sì. È quello che possiamo dire oramai si ritrova in quel political divide di cui parla l'Economist, no? Cioè da una parte ci sono quelli della società aperta, meritocrazia, immigrazione, globalizzazione, eccetera, dall'altra chi è contro? La vecchia sinistra, quella che D'Alema vuole riunire, sta rifluendo lì. E lui ne è l'unico capo possibile, un po' quello che è successo in Germania con la Fontaine, un po' il modello Corbyn, Sanders, no, questa roba qua. Però Claudio, posso fare una domanda? Cioè D'Alema adesso... Io capisco, in larga misura sono d'accordo, però se tu mi dici D'Alema e Jeremy Corbyn, io ho l'obbligo di dirti, la giornalista, no, non è così, e lo sai meglio di te, meglio di me, che io non è così. In che senso vuoi dire che D'Alema è più a sinistra, è più moderno di Corbyn? No, io sto dicendo che è un'altra storia non ravvisabile con, diciamo, il colore dell'ipersindacalismo filopalestinese, cioè sì, D'Alema però, è un'altra cosa. Beh, a proposito di filopalestinesi, no, diciamo, da lei, ma ha delle Hamas, ho capito, giocarsi. Sì, d'accordo, ma lo so benissimo. Però detto questo, dai, non mi puoi dire che è Jeremy Corbyn. No, io ti dico che c'è una vecchia sinistra che un po' dappertutto oramai si sta arroccando intorno a vecchie bandiere. Rappresenta un 5, un 10% dell'elettorato, non lo so quanto, questo poi si vedrà. Da lei, ma ha ragione a metterla insieme. Perché quelli che invece restano nel PD, diciamo gli Speranza, i Cuperlo, giocano a fare la minoranza in un contenitore grande per salvare, diciamo, il proprio posto. Quelli che invece si spingono oltre, come D'Attorre o come D'Alema, che magari li metterà insieme, fanno un po' una scommessa. E secondo me ha un senso. Come dire, è una scelta apprezzata. Io apprezzo più la scelta di D'Alema e di D'Attorre che non quella di Speranza e di Cuperlo, per capirci. Poi quanto raccoglieranno? Vabbè, si discuterà nel merito. Loro vorranno, come dire, restare in questo arroccamento, diventare una sinistra chiusa, nazionalista, ossessionata, diciamo, dalla paura del futuro. Si conteranno e vediamo quanto. Ma Bersani dove lo metti? Tra i corbiniani o tra quelli che restano nella parte? Beh, mi pare di capire che lui voglia più restare, diciamo, a coprire i giovanotti di belle speranze della minoranza del PD che puntano a raccattare qualche posto in Parlamento, diciamo, perché poi è questo, diciamo, l'oggetto del contesto. No, vabbè, adesso scendiamo nel concreto. Però aspetti un secondo, devo chiedere alla Torre che cosa a sua volta non lo convince l'analisi di Velardi, sia pur Velardi essendo uno che appunto dice no, io apprezzo il fatto che gente come D'Attorre, gente come D'Alema voglia raccogliere, distinguendosi se perde la battaglia al referendum del PD altrove, perché vuole raccogliere una parte di elettorato che c'è nella storia della sinistra italiana. Però che cosa non la convince di quello che ha detto Velardi? No, non mi convinco. Innanzitutto io penso, facciamo una scommessa, io penso che anche il resto della sinistra PD arriverà su questa posizione. Francamente, non io, come sta Velardi, a un certo punto ho fatto le mie scelte, anche dolorose, però non penso che le compagne e i compagni che sono rimasti nel PD lo fanno perché vogliono salvare il seggio. Non li conosco, non ci credo. Posso imputargli magari un difetto di decisione, ma non il poltronismo. Non sono opportunisti che punta pensano semplicemente a salvare la poltrona. C'è il carico che Velardi conosce bene, venendo anche lui da quella storia della responsabilità, il mito del partito per cui si continua a ragionare del PD come se ancora fossimo la ditta deve restare unita, PC, una difficoltà a cogliere un cambio di paradigma. Però posso chiederla esplicitamente, Velardi un po' ha ragione nel dire, se poi naturalmente questa battaglia non dovesse vincere nel risultato referendario, l'esito è quello di organizzare qualcosa a sinistra del PD di Renzi. Ma questo spazio è evidente che c'è. Cioè, Renzi che cosa ha fatto? Renzi ha riposizionato il PD lungo una linea che non è totalmente inedita. Ecco, io sono in dissenso radicale, però Renzi non è che è un meteorite. Renzi era un possibile punto d'approdo di una mutazione della sinistra che, appunto, come dice Velardi, diventa la forza che punta, come dire, a garantire la globalizzazione, questa fase della globalizzazione capitalistica, per cui appunto sulla scia del blairismo degli anni 90 è la forza che si oppone dal lato di un governo liberale, liberista dell'economia. E da questo punto di vista c'è effettivamente una faglia che si sta aprendo, nel senso che c'è una parte sempre più grande della società che oggi subisce i colpi della crescita delle diseguaglianze, della svalutazione del lavoro, della riduzione del welfare. No, no, e non solo, c'è un'Europa che rischia di andare in pezzi nel 2017, parliamo chiaro, tra elezioni francesi e elezioni tedesche, perché se vince la Le Pen in Francia non è che non succede niente in Europa, appunto. Quindi è proprio una cosa... Cioè, sono due elementi secondo me, c'è una crisi di questo capitalismo finanziario e poi c'è un fattore di aggravamento in Europa costituito dal modo folle in cui è stato costruito l'euro, che ha evidenti elementi di insostenibilità. Ora Renzi è quello che colloca ciò che resta nel PD a difesa di questo assetto. La cosa è stata teorizzata anche con una certa lucidità dal ministro Franceschini nell'ultima direzione del PD, ha detto: noi dobbiamo organizzare i sistemici, cioè quelli che difendono questo assetto, a difesa dall'assalto dei populisti, perché qualsiasi forma di contestazione di questo ordine economico viene catalogata nella categoria del populismo. Io ho un'analisi diversa, io penso che se non c'è una sinistra in grado di articolare una critica a quest'ordine autonoma rispetto a quella della xenofobia della destra, noi consegniamo definitivamente tutti i ceti popolari, tutta la parte più debole della società o all'astensionismo o a una deriva xenofoba. E infatti sta avvenendo in diversi paesi europei, persino nella ricchissima Germania. Per cui davvero Velardi parla di vecchia sinistra, ma a me la vecchia sinistra è esattamente quella impersonata da Renzi e da Velardi, cioè la sinistra degli anni 90, Blairiana, lei dice, quella che non prende atto che la svolta di Blair, di Clinton eccetera eccetera in realtà ha prodotto delle faglie sociali ed è il grande problema su come si dà risposta alla globalizzazione, all'integrazione dei mercati, se si va avanti o si torna indietro, come la si governa. Io devo dire la verità, più si accentuerà questa lettura tutta interna alla sinistra, che ha delle ragioni oggettive, quelle che abbiamo tentato di rappresentare con i nostri due ospiti e i nostri ascoltatori, più la mia domanda è: ma gli elettori moderati ed ex di destra poi come ci si ritrovano in queste coordinate, dovendo dare un voto al referendum, non solo sui quesiti referendari? Perché insomma non è un mistero che però per vincerlo Renzi ha in mente che sia proprio quello l'elettorato che gli fa la differenza rispetto a chi obietta. Vedremo nelle prossime settimane, questo resta un punto aperto, tanto abbiamo molto tempo per continuare a ragionare. Intanto io ringrazio sia Alfredo Latorre che Claudio Velardi. Torniamo alle vostre telefonate, cominciamo con Raul da Modena. Prego Raul. Salve Giannino, mi scusi se l'ho distrutto, mi dispiace che sono andato via la torre, perché sentire la torre mi raggela il sangue proprio. Io sono un vecchio, io sono 55 anni e andavo alla festa di metà a servire quando ero piccolino, quindi sono di sinistra, non come la torre, sono molto più di sinistra, però sentirlo dire da lui che fa parte di D'Alema, Bersani, tutta quella gente che ha rovinato il partito, che è implicato in tutti gli scandali, in tutte le città, e sono i principali che hanno contribuito a distruggere il nostro paese, mi viene male. Adesso, io non so se lei, adesso ripeto, era Alfredo Dattorre, non Nicola Latorre, e che comunque voglio dire, non so se meriti tutti i giudizi che lei ha cambiato idea sulla sua opinione politica, questo è il punto di fondo, e però ci ha telefonato per questo o per altro? Io voto Renzi perché io credo che dopo 20 anni dove il mio partito non ha fatto assolutamente niente, anzi ha fatto da solo degli insulti con Berlusconi e con Premier. Io sono stanco di quella gente lì, sì, che non ha combinato niente. Renzi può darsi che faccia anche degli errori, però è uno che fa, che va avanti, con tutti i problemi che ci sono, sicuramente, perché poi noi dimentichiamo che in Italia abbiamo la mafia, andrà anche dalla camorra, quindi non è facile, però questo sta facendo qualcosa, gli altri non hanno fatto niente. Agli atti, che sono in molti a pensarla come lei, Raul, i renziani esistono, e come. Michelangelo da Milano, rapidissimo, 10 secondi. No, 10 secondi per dire che il fatto del giornalismo che, come dire, non è stato silente, sulle banche, io lo posso dire, nella mia storia di 47 anni lo posso un po' confermare, ci sono delle mosche bianche come Oscar Giannino, ma che non mi dica che il grandi testate, ma guardi, io sono il primo che l'ho detto, il primo l'ho detto, a me mi hanno licenziato, ma non me lo può dire il segretario del PD che ha ucciso la MPS. Comunque, non voglio sembrare troppo polemico, continuate su Radio 24, appuntamento alle 4:30 con la versione di Oscar, e continuate con Radio 24, abbracci, Alessandro Milan.